Le piacevoli notti. Libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Introduzione alla dodicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini. Notte dodicesima. I vaghi e occhiuti uccelli avevano già dato luogo all'oscurità della notte e i pipistrelli, nemici del sole e a Proserpina dedicati, eran già usciti delle usate grotte e per la caliginosa aria lentamente scorrevano, quando l'orrevole e grata compagnia, disposto ogni molesto e affannoso pensiero, allegramente all'usato luogo si ridusse. E messisi, secondo i loro ordini, a sedere, venne la signora, e diede un grazioso saluto. Indi, fatti alquanti balli con amorosi ragionamenti, la signora, sì come a lei piacque, comandò che l'auro vaso le fusse recato, e postavi la mano dentro, trasse di 5 damigelle il nome, delle quali il primo fu di Lionora, il secondo di Lodovica, il terzo di Floriana, il quarto di Vicenza, il quinto di Isabella. A questa e alle altre fu data ampia licenza di poter liberamente ragionare ciò che più le piacesse, con questa però condizione, che fussero più brevi e risolute di quello che furono nelle notti precedenti, alla qual cosa tutte e ciascaduna da per sé molto volentieri accontentorono. Fatta dunque la scelta delle donzelle che avevano nella duodecima notte a favoleggiare, la signora fece di cenno al trivigiano e al molino che una canzonetta cantassero, i quali, ubbidientissimi a comandamenti suoi, presi i loro strumenti accordati, in tal modo la seguente canzone artificialmente cantarono. Se il tempo invola ogni mortal bellezza col rapido suo corso, che più tardate, donna, al mio soccorso? La vita lieve fugge e le speranze son caduche e frali, le nostre voglie lunghe e l'ore corte. Di che il pensier mi strugge, ma tardi, o dura sorte dei mortali, del vostro error pentita e di mia morte, voi piangerete e di vostra durezza. Però datemi, Aita, mentre valor in voi e in me vita. Piacque a tutti la dilettevole canzone dal trivigiano e dal molino armoniosamente cantata, e a piena voce tutti sommamente la commendorono. Fine dell'introduzione alla dodicesima notte. Registrazione di Roberto Cofini.